Test attitudinale dedicato al soprannome di Iggy Pop. Perché si fa chiamare l'iguana? Forse per la sua passione per l'iguana, per l'appunto, per l'animale iguana. Ne possiede ben 15? Devo dirle che la notizia è completamente inventata. E allora forse Iggy Pop ha una vera passione per l'esposizione solare come l'animale iguana? Anche questa probabilmente è frutto di un parto di fantasia. E allora l'ipotesi esatta era la C. Iggy Pop ha militato in una band, ovvero gli Iguanas, come batterista dal 63 al 65. Ecco perché poi lo hanno chiamato l'iguana. Sa che molti... Devo fare questa osservazione a tutti i rocker, radioascoltatori e radioascoltatrici. Sì. Molti batteristi diventano cantanti. Anche Joey Ramone, cantante dei Ramones, era in origine batterista. Anche di Cioccio della PFM. E poi è diventato cantante. Anche quello dei Pooh. Come si chiama quello dei Pooh? Cantante. Anche, me ne viene in mente un altro subito, quello dei Genesis, Phil Collins. Phil Collins, tanti batteristi. E il nome del batterista dei Pooh che non mi sta venendo, lo dica. Il nome del batterista dei Pooh mi sfugge al momento. Dai, non facciamo queste figuracce. Non ho mai coltivato una passione per i Pooh. Da vicino il Pooh. Conosco Dodi Battaglia perché ero amico della signora Battaglia. Va bene, niente. Comunque un saluto alla grande batterista dei Pooh, indimenticabile. Un mito. Iggy Pop, The Passenger. Iniziamo l'ultima mezz'ora al grido di la la la la la la la la. Così può funzionare per il risveglio. 8 e 35 minuti primi. Bravi, complimenti. Stefano Dorazio, in quanti scrivono È impressionante in quanti scrivono al numero di SMS per segnalarci il nome del batterista. 1, 2, 3, 4, guarda là, 5, 6, 6. E guarda che non è poco, dico. Va bene, ci fa piacere sapere che siete appassionati anche della mitica formazione dei Pooh. Tante segnalazioni anche per Dave Grohl a proposito di batteristi che cantano. Va bene, grazie. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll in diretta fino alle 9. Abbiamo ancora qualche sorpresa da proporvi, come ogni giorno. No, non c'è Zorro, oggi non c'è Zorro. No, domani c'è Jerry Phillips, quello che scorreggia con le mani. Ragazzi, preparatevi, domani ne fa una che vi pettiniamo. E gli ACDC con la bocca? Ragazzi, sono quasi pronti. Quasi ci siamo. Restate con noi e sentirete che accade nella puntata 181 di Pane, Burro e Rock and Roll. Anche questa andrebbe cantata tutta come dei pazzi. Soprattutto voi in macchina. Giù il finestrino e si canta. La grande mattina di pane, burro e rock and roll con la squadra, l'Ariele, Freak Antoni, Spadino e la redazione. Isaac Rizzi. No, non Isaac Rizzi, il suono. L'ha sentito anche lei? Oddio, sì, non ci volevo far caso. Invece, oddio, il campanello. Questo campanello è del nostro portinaio o portiere, il Sciur Peretti. Cosa gli diciamo di Jennifer Pannocchio? Io non la voglio vedere. Buongiorno, Sciur Peretti. Buongiorno. Scusate, sono 412, 413. Cosa conta? Ci siamo informati per quella cosa di Jennifer Pannocchio. Sì, no, non mi distragga, dottor Ariele, non mi distragga. Non mi distraga, per favore. No, prego. 417, buongiorno. 18, 19. Buongiorno a tutti, scusate. Buongiorno. Se vi disturbo qui in televisione, ma qui faccio po' vedere, eccola qui. 452, 53, sì. Ecco qui. No, scusate, perché stamattina sapete che io tengo il mio atrio come fosse un tempio inviolato. Lo sapete. Ci tengo moltissimo. E infatti sono molto molto dispiaciuto d'aver trovato questa mattina delle visibilissime tracce di pomodoro, delle piccole goccioline, per un totale di 470 goccioline. Non saranno mica quelle che stava contando prima. Esattamente. Un po' come pollicino. Provengono sicuramente dalla pizza di Ariel. Io non ho mangiato pizza stamattina. No, so perfettamente dove sono finite queste tracce. Sono finite. Guardate lì sul pulloverino. Sul pullover, ecco, del dottor Antonio. Bravo, complimenti. Scusate, voi mi offendete. Non è olio quello. No, non è pomodoro. Sono tracce di rossetto. Ah, dice? Sì, in effetti, quanto Tom Bard. Eccolo, Tom, sì, bravo. Mi spiace contraddirla, dottor Antonio. Ma proprio qui è rossetto. Proprio qui accanto ci sono dei rimasugli di una pizza Wurster, pancetta e uovo fritto ancora caldo. Bravo, Frick! Non è mia. Complimenti, la mattina pizza Wurster, pancetta e uovo fritto. Bravo, poi lamentiamoci che abbiamo mal di pancia. No, bravo. Io assolutamente. Rossetto. Se prendo una pizza, guardate, amici, se prendo una pizza, io la prendo vegetariana. E cosa sono quelle macchiette lì, allora? Le ha contate? 475, 76, rossetto, 77. Rossetto. Allora, dottor Antoni, se ti becco un'altra volta a sporcare l'atrio, ti inforno a 450 gradi e ti servo con una carota nel culo. Arrivederci, Sciur Peretti. Arrivederci, salve di nuovo. Arrivederla. C'ha ragione, cosa sporchi tutto di olio le cose, Uffiano, che l'aria lì. Caspita, guarda, arrabbiato oggi, la faccio pagare, Ari. 450 gradi nel forno. No, ma è soprattutto la carota nel culo, se ho capito bene, nel culo. Sembrava di sì. Quello mi preoccupa, maledetto Ariel, perché non mi aiuti, mi lasci sempre solo in balia di questo pazzo portiere o portinaio. The time. Tramite le nostre linee di contatto, il numero di SMS piuttosto che la mail, spesso e volentieri veniamo a conoscenza della vostra rocchitudine, perché no? Quella è una delle domande più ricorrenti che poniamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Voglio dare il benvenuto a un amico che ci ascolta sulle frequenze milanesi, è Luca, ha 27 anni e lui ha una passione molto rock. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Daniel. Pane, burro e rock and roll. Ciao a tutti. Allora, vediamo di... sicuramente farò delle figuracce, ma ci provo. Tu Luca, innanzitutto organizzi come si chiama, uno spettacolo? Sì, uno spettacolo a teatro. Esatto. Con la proiezione di un documentario sulla malavita milanese anni 50-60. La serata si chiama Mala Ricordi. Sì, Mala Ricordi. E vi occupate di questa malavita milanese degli anni 50, del dopoguerra. Sì, esatto, perché è una malavita che è passata e che purtroppo si è tramutata in quello che vediamo adesso. Certo. E quindi è un bene, tra virgolette, ricordare un po' com'era una volta, un po' bonaria, non era una malavita spietata. No, una malavita molto rock. Sì. Infatti io ho fatto un giro sul sito internet, curato tra l'altro da te Luca, sì, se esatto. Non ho capito male, dove specificate un po' cosa accade in questi appuntamenti. Questo che daremo oggi è il secondo che fate. Il sito è malaricordi.com. Esatto. Sono certo che all'ascolto in molti saranno interessati da questa malavita milanese degli anni 50. La Ligera si chiama, esatto, da quello che ho capito. Ligera, sì. Io ho parlato pochi minuti con Luca al telefono e già avrei 80.000 domande da fargli. Do il prossimo appuntamento, che è il 27 di febbraio. Esatto. Al teatro La Scala della Vita. Sì. In via Piolti De Bianchi 47 a Milano. Sì, esatto. Poi lo ricorderò in qualche altro appuntamento. E poi Luca, magari ci risentiamo e ci racconti un po' che cosa accade. Allora, sicuramente c'è questo documentario che si chiama Mala Milano. Esatto. E poi dopo il documentario, dopo il rinfresco, ci sono due personaggi che nel 58 hanno fatto la rapina, tra virgolette, la rapina del secolo, che è quella di Biosoppo, le famose sette tute blu. Sì. E quella sera ce ne saranno due che ci racconteranno un po' le vicende appunto di quella giornata lì, che è in occasione proprio del cinquantenario. Guarda te. Esattamente, okay. Il cinquantenario. Ci racconteranno un po' le motivazioni e come sono andati fatti quel giorno lì. Ma cosa combinavano queste tute blu di via Osop? Praticamente sono arrivati lì armati, vestiti con passamontagna e delle tute blu uguali identiche tra di loro, sono scesi, hanno fermato un furgone portavalori, hanno rubato 500 milioni di lire nel 58, sì, senza sparare nemmeno un colpo, hanno fatto solamente rumore con la bocca, facevano finta di sparare. No, guarda te. sì. E poi dei musicisti rock con la bocca ante litteram. Esatto, anziché fare i bassisti con la bocca. Esatto, facevano il mitra con la bocca. Esatto. Quindi a 50 anni precisi, che roba. Esattamente, il 27 febbraio sono 50 anni precisi, sì. Senti, io immagino che esiste una letteratura tutta dedicata a questa malavita. Sì, ci sono parecchi libri. Tra l'altro uno di questi libri l'ha scritto anche uno delle tute blu che ci sarà quella sera, Luciano De Maria. Esatto, perché è pieno di questi personaggi da quello che ho intuito. Sì, ce ne sono ancora parecchi a Milano. Spesso questi... nascosti, ma ci sono. Esatto, questi saranno gli ospiti della serata del 27. Sì. Ma per esempio mi accennavi che l'evento passato, che era gennaio. Esatto. C'era? Luciano Lutring, il solista del Mitra. Il solista del Mitra. Sì, anche lui ha scritto parecchi libri. Guarda, io lascerei l'acquolina ai radioascoltatori, non diciamo chi è il solista del Mitra, magari te lo chiedo settimana prossima, sì, così ricordiamo nuovamente l'appuntamento. Va benissimo. Per chi fosse interessato, malaricordi.com, la ballavita milanese degli anni 50, il 27 febbraio, teatro La Scala della Vita, via Piolti De Bianchi 47 a Milano. Organizza Luca, chiedete di Luca. Chiedete di me. Che fa tutto lui. È una passione che hai. Sì, sì, sì, è una passione mia che seguo da un po' di anni. Adesso... e ho deciso di organizzare questi eventi qui per proporla un po' in giro. Ci sentiremo, Luca, perché potrebbero saltare fuori cose interessanti da questi racconti, no? Va benissimo. Non so, c'è da dire che provare una rapina oggi facendo il mitra con la bocca... Non so se rende con le telecamere, tu è un po' un casino, e anche scappare in macchina col traffico, non so. Esatto. Va bene, Luca, a prestissimo. A presto. Ciao. Ciao, grazie. Se siete interessati, ripeto, malaricordi.com. Intanto si prosegue con pane, burro e rock and roll. Gli Aerosmith, The Angel. I'm in tears in the crying that I'm doing. Pochi minuti alle 9. Il nostro compito è stato fatto anche quest'oggi, La promessa, dalle 7 alle 9 noi siamo qua, belli precisi. Ci resteremo ancora per molto, La giornata per voi è ancora lunga. E non potete immaginare gli sbattimenti da idioti che facciamo per tirare in piedi pane, burro e rock and roll. Ma ce n'è di bisogno e quindi lo facciamo. Lancio la sigla, no, abbiamo la fine, scusa. La pre-sigla, come i veri programmi seri, eccolo qua. Ciao da Spadino, da Fricantoni, dall'Ariele, da Mister Trombetta. Molti mi chiedevano del prossimo appuntamento alla Flog di Firenze. Ho controllato, è sabato prossimo, sabato 23. Tra l'altro dal vivo Alec Empire, cioè mica cacchetta, Chissà se fa dei pezzi degli Atari Teenage Riot, a me piacerebbe tantissimo. Dici che se glielo chiedo mi picchia, ci sta, è uno di quelli che è così, vabbè. Sigla! Chiudiamo la puntata 181. Buon martedì 12 febbraio 2008. Proseguite! Ce la potete fare. Pane, burro e rock and roll. Noi si ritorna domani. La tua colazione roll. Diretta dalle 7 alle 9 del mattino. Pane, burro e rock and roll. Tracututra. Domani c'è Jerry Phillips, seconda canzone. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Mi era venuta in mente una cosa da dire fondamentale, ma me la sono dimenticata. Quindi ciao, appuntamento a domani. Ah, ecco, ma Frigerogna oggi non lo facciamo? Eccola! Se vi siete dimenticati, se vi siete persi parti della trasmissione, radiorockfm.com. Ci trovate in streaming oppure sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm. Ci trovate il meglio del peggio e tutto, no? Dicevo, ma Frigerogna? Hai sentito di Ernesto Rogna? Ernesto chi? Ernesto il topolesto! No, cosa gli è successo? L'altra notte è riuscito a evadere dalla gabbietta numero 48, grazie alle sue abilità di contorsionista, ed è sparito nei corridoi del laboratorio. Beh, la mattina dopo lo hanno riportato indietro, morto. No! E com'è successo? Il topicida! Chi è quel bastardo? Un giorno o l'altro lo troverò e gliela farò pagare quel gran cornuto del topicida! Che razza di mostri, bisogna essere Frigo per uccidere dei tuoi simili e per di più senza ragione! Rogna, tu sei scemo! Il topicida è un veleno! Ah, non lo sospettavo.